19° canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 19° canto. O Simon Mago, o miseri seguaci che le cose di Dio che di bontade deon esser spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate. Or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba, montati dello scoglio in quella parte, ch'appunto sovra mezzo il fosso piomba. O somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti e ciascun era tondo. Non mi parean men ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori. L'un degli quali, ancor non è molt'anni, ruppio per un che dentro v'annegava, e questo sia suggel cognomo Sganni. Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese intrambe, perché sì forte guizzavan le giunte, che spezzate averien ritorte e strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, diss'io, e cui più roggia fiamma succia? Ed egli a me: se tu vuo chi ti porti là giù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. E io, tanto m'è bel quanto a te piace, tu sei signore e sai chi non mi parto dal tuo volere e sai quel che si tace. Allor venimmo in su l'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca laggiù nel fondo foracchiato e arto. Lo buon maestro ancor della sua anca non mi dispuose, sì mi giunse a rotto di quel che si piangeva con la zanca. O qual che sè, che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, cominciai io a dir, se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assessin, che poi che è fitto richiama lui perché la morte cessa. Ed el gridò: se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto. Sei tu sì tosto di quell'aver sazio per lo qual non temesti torre a inganno la bella donna e poi di farne strazio? Tal mi fec'io. Quai son color che stanno, per non intender ciò che è lor risposto, quasi scornati e risponder non sanno. Allor Virgilio disse: dilli tosto, non son colui che credi. E io rispuosi come a me fu imposto, perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse: dunque, che a me richiedi, se di saper chi sia ti calco tanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto, e veramente fui figliuol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti, che su l'avere e qui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son li altri tratti, che che precedetter me simoneggiando per le fessure de la pietra piatti. Là giù cascherò io altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi allor chi feci il subito dimando. Ma più è il tempo già che i pie mi cossi e chi son stato così sottosopra ch'el non starà piantato coi pie rossi, che dopo lui verrà di più laida opra di ver ponente un pastor sanza legge tal che convien che lui e me ricuopra. Novo Iason sarà di cui si legge ne Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Io non so si mi fui qui troppo folle, chi pur risposi lui a questo metro. De, or mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese se non viemmi retro. Né Pier né gli altri tolsero a Matia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perdé l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito e guarda ben la mal tolta moneta ch'esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse ch'ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i pravi. Di voi pastor s'accorse il vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista, quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non ch'egli uno e voi ne orate cento? Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il primo ricco patre. E mentr'io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. I credo ben ch'al mio duca piacesse, con sì contenta labbia sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Né sì stanco d'avermi a sé distretto, sì men portò sovra il colmo dell'arco, che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi soavemente spuose il carco, soave per lo scoglio sconcio ed erto, che sarebbe alle capre duro varco. Indi un altro vallon mi fu scoperto. Fine del 19° canto dell'Inferno.